brano che è stato inciso sul CD L'ora della verità e ricade nei 30 anni dell'esplosione del D19 di Ustica, nonché successivamente del papocchio che ha creato questa repubblica collegandolo alla strage di Bologna, per cui un innocente come Ciavardini ancora ne sta pagando le conseguenze. Questa è Ustica chiama Bologna. Voglio poi negare la realtà.